Capitolo 18 Guerre fatte da Davide, tributi imposti alle genti, suoi ufficiali. Dopo tali cose Davide mise in rotta i Filistei, e li umiliò, e ritolse Get, e i suoi villaggi dalle mani dei Filistei, e sconfisse Moab, e i Moabiti divennero servi di David, e gli offerivano doni. In quello stesso tempo David vinse ad Arezzer re di Saba nel paese di Emat, allorché si mosse per dilatare il suo dominio sino al fiume Eufrate. E David prese a lui 1000 cocchi a 4 cavalli, e 7000 soldati a cavallo, e 20000 pedoni, e tagliò i garetti a tutti i cavalli dei cocchi, eccettuati i cavalli di 100 cocchi, i quali egli serbò per sé. Ed essendo sopraggiunti i soriani di Damasco, per recar soccorso ad Adarezer re di Soba, uccise loro Davide 22000 uomini. E mise presidio in Damasco, onde anche la Siria fosse soggetta a lui, e gli offerisse tributi. E il Signore gli diede aiuto in tutte le sue imprese. E Davide prese ancora i turcassi d'oro, che erano stati dei servi di Adarezer, e li portò a Gerusalemme. E similmente gran quantità di bronzo da Tebat, e da Shun, città di Adarezer, del qual bronzo Salomone fece il mare di bronzo, e le colonne, e i vasi di bronzo. Avendo adunque udito Tur re di Emat, come Davide aveva disfatto tutto l'esercito di Adarezer re di Soba, mandò ad Oram suo figliuolo al re David, per chiedergli pace, e per congratularsi con lui dell'avere abbattuto, e soggiogato Adarezer, però che tu avea inimicizia con Adarezer. Consagrò Eziandio il re David al Signore tutti i vasi d'oro, e d'argento, e di bronzo, e l'argento, e l'oro, che gli avea preso a tutte le genti, tanto dell'Idumea, e di Moab, e degli Ammoniti, come dei Filistei, e degli Amaleciti. Abisai poi figliuolo di Sarvia sconfisse 18000 Idumei nella valle delle Saline. E pose presidio nell'Idumea, affinché l'Idumea fosse soggetta a David. E il Signore salvò Davide in tutte le sue imprese. Davide adunque regnò sopra tutto Israele, e rendeva ragione, e amministrava giustizia a tutto il suo popolo. E Joab figliuolo di Sarvia era capo dell'esercito, e Josafat figliuolo di Ahilud era segretario. Sadoc figliuolo di Achitob, e Achimelech figliuolo di Abiatar, erano sacerdoti, e Susa notaio. Parimente Banaia figliuolo di Gioiada aveva il comando delle legioni di Cereti, e di Feleti, e i figliuoli di Davide erano i primi al fianco del re. Note, gli offerivano doni. Questi doni, o regali erano veri tributi sì in questo luogo, e sì ancora, Due punti da Tebatec. Boshart crede, che queste due città siano quelle stesse, le quali sono dette Bete e Berot. Reg. 8. Due punti dell'Idumea e di Moab. Nel libro. Di Recap. 8 si legge, della Siria e di Moab, ma i Siri e Ammoniti in quella guerra con gli Idumei, onde non vi è motivo di pretendere di intaccare la Volgata come taluno vorrebbe.